Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese in seconda serata con questo ciclo di conversazioni che trae spunto dal testo pubblicato in nuova edizione di recente Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Da alcuni mesi ci stiamo interrogando sull'opportunità di spingere lo sguardo al di là di quello che è l'orizzonte terreno. E perché ci interroghiamo sull'opportunità di chiederci che cosa ci sia dopo la vita dell'uomo? Perché questa domanda, l'abbiamo detto in diverse circostanze, l'abbiamo ribadito, ma giova sempre ricordarlo, è una domanda scomoda. È una domanda scomoda perché ci obbliga a confrontarci con il mistero della morte, una realtà che oggigiorno, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere, viene abbastanza censurata, quando non trattata con pochissima umanità. Pensiamo alla recente pandemia da coronavirus, come la morte è diventato oggetto di cronaca, di statistica, di numeri, un fatto quasi quotidiano, spesso con un incalzante ritmo di notizie che non ci hanno permesso di entrare nel dramma delle singole situazioni. Una morte che spesso ha semplicemente significato l'incremento appunto di un dato statistico percentuale e non ha tenuto conto della singola esistenza unica e irripetibile che con quella morte a livello terreno aveva termine. Spesso in condizioni drammatiche, sappiamo quanto le restrizioni imposte da questa pandemia hanno obbligato le persone a trovarsi in condizioni anomale, inusuali, a morire da sole, non solo private del conforto di parenti e familiari, ma soprattutto del conforto dei sacramenti religiosi. Ecco, forse per esorcizzare la paura di un dramma così profondo lo si è ridotto a dato numerico, a fenomeno di massa, lo si è guardato da lontano o addirittura lo si è fatto invece entrare in casa come una notizia di cronaca qualsiasi. Quello che dobbiamo fare è riconoscere che anche al di là di questo tempo particolarissimo segnato dalla pandemia, in realtà il mondo contemporaneo sta cercando di censurare il dramma della morte. Ha come fatto calare una sorta di censura, una cortina di silenzio, direi quasi che c'è una sorta di congiura, di rimozione di questo dato problematico della vita dell'uomo. Perché problematico? Perché evidentemente infrange il desiderio vano di ogni uomo che pretenda di essere autosufficiente, che pretenda di fare a meno di Dio, che pensi di poter realizzare il massimo dei suoi desideri di felicità qui su questa terra. E contro tutto questo sta la morte, come lo vedevamo le volte scorse, un avvenimento imprevedibile, incomprensibile, umanamente parlando inaccettabile, non naturale, quando invece il desiderio di ogni cuore umano è di poter vivere in una felicità che sia per sempre. E poi vedevamo soprattutto come la morte fa paura. Non se ne parla perché si ha timore, si ha paura, non ci si vuole confrontare con le domande forse più scomode legate a questa questione decisiva per comprendere il valore della vita dell'uomo, perché abbiamo detto più volte che se la morte è il termine della vita è soltanto conoscendo il termine di un cammino, di una strada, conoscendo la sua meta e la sua destinazione, che possiamo capire anche il significato e la consistenza di tutto il percorso. La paura riguarda quello che sta prima della morte, dicevamo, c'è la paura della sofferenza, del dolore, del distacco dei propri cari, di perdere le persone amate, ma c'è anche la paura per quello che è oltre la morte. Che cosa c'è dopo? Il nulla? Una nuova esistenza? Tanti interrogativi affollano il cuore dell'uomo. Allora verrebbe da dire, e questo è il discorso che fa l'uomo della strada, l'uomo comune, ma anche il circuito mass mediatico che va per la maggiore imponendo un fortissimo relativismo etico oggigiorno, l'idea è quella di dire, beh, se ci sono paure, ansie, drammi, ma alla fine cerchiamo di lasciare l'uomo un po' sereno, godiamoci la vita e non pensiamoci più di tanto. È proprio possibile attuare questa opzione? O non è forse vero che la vita dell'uomo non può intendersi come semplicemente limitata all'orizzonte terreno? È chiaro che se la vita dell'uomo in sé va oltre, allora non possiamo pensare di non interrogarci su quello che riguarda l'uomo stesso nel suo vivere al di là della morte. E possiamo guardare in questo momento la questione da un punto di vista anche puramente umano, cioè possiamo accorgerci che ci sono alcuni indizi innegabili che ci mostrano che la vita dell'uomo non può né rinchiudersi né limitarsi nel puro orizzonte terreno. Non è possibile pensare che la vita dell'uomo sia per sua natura semplicemente compresa come una triste parentesi o una spensierata avventura tra la culla e la tomba. Nel cuore dell'uomo c'è un desiderio che va al di là dell'orizzonte finito. Questo è un primo indizio. E poi vedremo che la natura stessa dell'uomo, in quanto composto di anima e corpo, è un secondo potente indizio per dire che lo sguardo deve essere necessariamente spinto al di là della morte. Partiamo dunque dal primo elemento, il desiderio di infinito che c'è nel cuore dell'uomo. Quello che esiste qui sulla terra pare non poter appagare un simile desiderio. Nella mia esperienza di insegnante, 20 anni circa che insegno al liceo storia e filosofia, non è raro che i miei alunni si presentino, soprattutto il lunedì mattina, all'inizio della nuova settimana, con uno sguardo che è un po' rassegnato di fronte alla vita, apparentemente privi di quel desiderio buono che, spinge e sostiene ogni creatura razionale ad andare oltre quello che gli si presenta nella quotidianità per realizzare progetti o imprese che trascendono l'orizzonte finito, l'orizzonte storico, l'effimero. E a questi così, studenti, forse un po' intristiti dalla vita, e soprattutto in questo tempo di pandemia, quanto mai a volte privi ecco, di speranza o di una prospettiva, io ricordo loro una grande figura, dell'antichità. Una figura di una personalità storica importantissima, ma pagana, e a cui sono molto affezionato, che è Alessandro Magno. Una vita brevissima, dal 356 al 323 a.C., 33 anni di vita che lo hanno fatto accostare, ovviamente, ai 33 anni tradizionalmente vissuti anche da Gesù. Re e conquistatore macedone, che all'età dei 18 anni appena, quella età alla quale i miei studenti sostengono l'esame di maturità, era capace di distinguersi per imprese eroiche e soprattutto spiccava per capacità di comando. Ai miei studenti che si apprestano a festeggiare i 18 anni, chiedo sempre: sapete cosa regalò Filippo il Macedone al figlio Alessandro per il 18° compleanno? Gli regalò il comando di un esercito di 30.000 uomini. Ora immaginate un diciottenne al comando di 30.000 uomini. Che equilibrio doveva avere, che capacità di dominio di sé anzitutto per comandare gli altri. E questo ovviamente stride col diciottenne, diciamo così, abituale di oggi che fatica a condurre la propria vita secondo un modo ordinato e buono. Un uomo che era destinato a conquistare il mondo, questo sembrava già agli occhi dei suoi contemporanei, e in effetti fu in grado Alessandro Magno di compiere gesta straordinarie. Pensate che in poco più di 10 anni aveva conquistato l'intero impero persiano, dall'Asia Minore all'Egitto, ed era giunto a terre dove neppure i romani sarebbero arrivati, penso agli attuali Pakistan, Afghanistan, India, fino ai confini della Cina. E con questo cerco ovviamente di stimolare un po' i miei allievi, no? Ispirando a loro il desiderio di mettere a frutto i personali talenti che anch'essi ricevono. Non è che dobbiamo conquistare tutto il mondo, sia chiaro, ma almeno mettersi in gioco. Ma soprattutto desidero far vedere che la bramosia di conquista che attanaglia il cuore dell'uomo, quel voler conquistare il tutto, l'infinito, l'universo, è destinata a rimanere inappagata anche nel caso di quei grandi protagonisti storici che sembrano giunti a un certo punto della loro carriera ad avere tutto. E questo è proprio il caso di Alessandro Magno. È un modo per dimostrare che quello che il cuore dell'uomo desidera, il mondo non lo può offrire. Cosa intendo dire? Che anche Alessandro Magno, arrivato ai confini del mondo, avrebbe voluto di più, al punto da magari desiderare di conquistare la Luna se solo avesse potuto. In particolare, Leggo qualche verso del poema Alexandros di Giovanni Pascoli, poeta accademico della seconda metà dell'Ottocento, che ben rappresenta la delusione di quel grande conquistatore che è stato Alessandro Magno quando giunge ai confini del mondo. Fiumane che passai, voi, la foresta immota nella chiara acqua portate, portate il cupo mormorio che resta, montagne che varcai, dopo varcate, sì grande spazio di su voi non pare che maggior prima non lo invidiate. Azzurri come il cielo, come il mare, o monti, o fiumi, era miglior pensiero ristare, non guardare oltre, sognare. Il sogno è l'infinita ombra del vero. O più felice, quanto più cammino m'era dinanzi, quanto più cimenti, quanto più dubbi e quanto più destino. Ecco, Alessandro nel poema di Pascoli dice che forse era meglio stare fermi, no, non guardare oltre, non spingersi a conquistare realmente quelle terre, ma limitarsi a sognare, perché in fondo il sogno è l'ombra infinita del vero, il vero non è infinito. E quindi dice: ero molto più felice quanto dovevo ancora compiere il cammino, dovevo compiere ancora l'impresa e la conquista, quando c'era ancora un destino da tracciare che non dopo. E proprio così, compiuta quella grande impresa che possiamo portare nell'animo, restiamo delusi. E come era rimasto deluso, l'abbiamo già visto anche Cesare Pavese, dopo che aveva vinto il premio Strega e si era accorto che era qualcosa di inutile. E quasi ci rammarichiamo di essere giunti alla fine del cammino, perché se ancora la strada fosse davanti a noi, almeno potremmo immaginare esiti, conquiste e beni ben maggiori di quelli che il mondo invece sembra in grado di offrirci. Ecco, da Alessandro Magno alla nostra esperienza quotidiana il passo è breve. Ciascuno di noi sperimenta infatti una sorta di sproporzione tra le attese e la realtà, ad esempio nell'orizzonte dell'affettività. Succede molti, ad esempio, di riuscire a conquistare la ragazza o il ragazzo del cuore e poi ci si accorge che dopo tanti sforzi, pur essendo il meglio possibile per la tua vita, per questo mondo terreno, per questa esistenza, tuttavia non è in grado di colmare il tuo desiderio più profondo. E non vuol dire che non è la persona giusta, ma vuol dire che il tuo bisogno di essere amato è infinitamente più grande. Quando si guarda la realtà dell'uomo come un essere nato per la relazione con l'altro, bisogna riconoscere che l'unico altro capace di farti sentire amato come tu hai bisogno è Gesù. Che tu scelga la vita consacrata, che tu scelga il cammino matrimoniale, l'unico sposo in grado di dare compimento all'attesa di felicità della tua anima è Gesù. Questo non significa che allora non si può amare fino al punto di dare la vita per la persona amata, ci mancherebbe. Non significa che non si può, non so, condurre un cammino matrimoniale di 50, 60, magari 70 anni amandosi fino all'ultimo respiro, nel sacrificio, nella dedizione anche eroica l'uno per l'altra. Certo che si può, ma bisognerà onestamente riconoscere che il cuore dell'uomo chiede ancora di più. Insomma, l'uomo è fatto per l'infinito. E tutte le cose finite che pure desidera e conquista non fanno che svelargli con amarezza, ma anche direi una salutare amarezza, questa verità. Il mondo non sazia la fame di infinito. Ecco, questo è il mio primo indizio di questa sera per dire bisogna guardare oltre, perché tanto il tuo cuore ti dice non mi basta. È un po' come quando Agostino ricorda con quale bramosia fame cieca si buttasse sulle cose pur belle, non capendo che soltanto la bellezza in sé di Dio creatore avrebbe potuto appagare quello sguardo interiore che quella bellezza appunto cercava. Il secondo indizio che ci fa capire come non ci si può limitare a considerare l'uomo nell'ambito dell'orizzonte terreno consiste proprio nella natura stessa della persona umana. L'uomo è un essere a due dimensioni. È composto, e questo è poi il punto centrale della conversazione, di questa puntata, è composto di anima e corpo. L'anima è spirituale, il corpo è materiale. L'anima mi dice apertura all'infinito, mentre il corpo si colloca anzitutto nell'ambito del finito e della corruttibilità. Ora, se l'uomo possiede Questa duplice dimensione all'interno della sua stessa natura, va da sé che la sua esistenza non può limitarsi a una sola di esse. Se mi limitassi a considerare l'uomo nell'orizzonte corporeo, terreno e materiale, sarebbe come considerare l'uomo puramente corporeo, sarebbe come considerare la sua vita monca vissuta a metà, cioè non vissuta affatto. Sarebbe come trascurare la parte essenziale dell'uomo che è l'anima. È proprio su questo punto, su questa idea dell'uomo a due dimensioni, che si gioca quello che è il punto fondamentale, direi, della questione, cioè riconoscere che a una visione materialistica, tipica della mentalità contemporanea, si può opporre uno spiritualismo estremo, altrettanto sbagliato. Bisogna cercare di evitare gli estremi e conciliare queste due realtà, corpo e anima, nell'unità appunto dell'uomo. Quella contemporanea, l'ho appena detto, è una civiltà sempre più materialista. Pare difficile affermare che l'uomo è fatto di anima e di corpo. Solitamente si dice: credo solo a quello che vedo è un corpo. E quando, ad esempio, un uomo muore, non si vede che è un cadavere. Ma non si pensa che ci sia un'anima spirituale in grado di sopravvivere. Ed è proprio vero, oggigiorno l'umanità appare quasi soggiogata dai bisogni materiali, quasi che quello terreno fosse l'unico orizzonte in cui si può collocare, ma anche esaurire l'esistenza umana. Io credo che sia sufficiente guardare a quanto si spende, nonostante la crisi economica che da una decina d'anni attanaglia l'Italia, l'Europa e il mondo. Quanto si spende appunto per prodotti per il corpo, trattamenti di bellezza, palestre, piscine, sedute dall'estetista, ma anche notare come in tutti i modi l'uomo cerca di non sembrare vecchio quanto è e si sottopone a qualunque sacrificio in termini di terapie, trattamenti ed esborso economico, pur di vedersi togliere all'apparenza magari 4-5 anni di età. E a questo si aggiungono poi gli studi più o meno scientifici, di questo quel sedicente esperto che promette che quanto prima l'uomo vivrà 100, 120 o anche 150 anni. Insomma, c'è paura di invecchiare. Ovviamente questa paura di invecchiare nasconde la paura della morte che è subito dietro l'angolo della vecchiaia. E bisogna dire questo, che è difficile, capire, oltre a questa paura dell'invecchiamento, che è naturale, anzi è un salutare ammonimento ricordare che la vita è passeggera. Io vorrei anche aggiungere che faccio fatica a capire chi vive quasi una smania di attaccamento alla vita terrena. È come se uno dicesse: io vorrei vivere il più a lungo possibile qui. Ma perché? Cioè, passare decenni a pagare tasse, lavorare, soffrire, faticare, ammalarsi, invecchiare per poi morire comunque? Quando invece ci potrebbe essere una prospettiva diversa, e quella prospettiva che è inaugurata dall'oltre, che è un po' la parola chiave di tutto questo ciclo di conversazioni, si potrebbe puntare non sulla eternità di questa vita, ma su una vita nuova ed eterna, quella nella comunione con Dio. Ma di questo ovviamente parleremo più avanti. Ma quello che conta è andare al di là della pura materialità, che riguarda una sola dimensione dell'uomo. Anche quando abbiamo sentito parlare politici di primissimo piano del bene principale della salute umana nel tempo del coronavirus, per cui giustificare poi qualunque misura di restrizione, pur necessaria, ecco, ci mancherebbe, magari ecco, nelle misure potremmo entrare forse in discussione e capire se nei tempi, nei modi sono state fatte le scelte giuste, ma la premessa è comunque sbagliata. La salute e la vita materiale terrena non è il bene principale dell'uomo. Il bene fondamentale è la vita, perché ha fondamento di ogni altro bene. Ma il bene principale non può essere la salute o la vita, è la libertà, è la realizzazione, è l'amore, è l'indipendenza. Perché quei grandi protagonisti della storia che noi ricordiamo, quelli a cui intitoliamo monumenti, piazze, strade, non hanno perso la vita per vivere, hanno perso la vita per la libertà, per l'amore, per la felicità, per l'indipendenza. Questi sono i valori principali, ma è evidente che se uno è disposto a perdere la vita terrena, la vita materiale, la vita biologica e perché riconosce maggior valore a un'altra dimensione, quella spirituale. Se torno invece all'uomo a una dimensione sola, da una parte trovo il materialismo più radicale, che è poi l'edonismo, la ricerca del piacere, l'appagamento degli istinti e dei desideri di oggigiorno. Ma la monodimensionalità dell'uomo si trova anche sul versante opposto, cioè quello di dire: ma in fondo sì, c'è l'anima, ma è una vaga forma di spiritualità o di energia interiore. Potrebbe essere quasi una scintilla di vita che anima una natura viva dalla quale veniamo, alla quale torneremo per trasformarci però in polvere dopo la morte e magari rinascere sotto forma di fiore o di albero. Questa dottrina, che conosce molteplici sfaccettature e che va di moda oggi in diverse varianti fai da te del tipo io un po' la penso come mi pare, omette di considerare la realtà dell'anima. Non dico secondo l'insegnamento della Chiesa, lo vedremo più avanti, ma secondo l'insegnamento della filosofia antica. Per mettere in dubbio il fatto che l'uomo sia soltanto un corpo, al più inabitato da una certa forma di energia vitale, per accettare l'idea dell'anima come una realtà sussistente, autonoma, spirituale, basta partire da Aristotele. Io cito sovente Aristotele nelle lezioni e nelle catechesi perché so che se parto dal Vangelo si alza subito la mano, io tanto non credo, se cito il Magistero della Chiesa, ma io non sono cattolico, ma se citi Aristotele tacciono tutti. E perché? È perché essendo un filosofo pagano e precristiano fa un puro ragionamento e tra l'altro dimostra che alla esistenza dell'anima, come poi ribadisce anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci si arriva con il semplice uso della ragione. In fondo, la Chiesa insegna che dimostrare che Dio esiste e che l'anima esiste è un semplice compito della ragione umana. E poi la fede riguarda aderire all'idea che Dio sia un padre buono e misericordioso, che quest'anima meriti la salvezza nel paradiso. Ma i cosiddetti preambula fidei, i preamboli della fede, cioè Dio esiste, l'uomo ha un'anima spirituale immortale, anche la ragione li può raggiungere. E a questo punto merita osservare quanto diceva Aristotele in merito all'anima. E qui un po' di filosofia la dobbiamo fare, cerco di semplificare al massimo concetti che vengono solitamente proposti ai ragazzi del terzo anno del liceo. Aristotele, anzitutto, dice che nell'anima ci sono tre funzioni diverse: quella vegetativa, quella sensitiva e quella razionale. Quella vegetativa presiede alle funzioni vitali di base, come la nutrizione e la riproduzione, il semplice vegetare. Poi c'è quella sensitiva che invece organizza i sensi e il movimento, quindi percepire e muoversi. E poi quella razionale che invece coordina le attività intellettuali e di pensiero. E il filosofo che cosa fa? Distingue i viventi in base alla complessità dell'anima che possiedono. Ad esempio, i vegetali sono i viventi del grado più basso, possiedono soltanto un'anima dotata, come dice il loro stesso nome, della funzione vegetativa. Gli animali sono dotati di un'anima vegetativa, ma che possiede anche la funzione sensitiva, perché possono vedere, sentire, gustare, percepire sensibilmente, odorare e muoversi. Infine, gli esseri umani, che per Aristotele, parliamo di un filosofo vissuto 25 secoli fa, non sono semplicemente animali che camminano su due gambe e con pochi peli, ma sono esseri essenzialmente diversi da tutti gli altri animali. Perché? Perché possiedono l'anima al più alto grado di complessità, dotata non solo di funzioni più alte, ma di funzioni sostanzialmente diverse, cioè quelle razionali. E la caratteristica specifica dell'uomo è proprio quella di possedere la razionalità e, congiuntamente a questa, la volontà. Possiamo dire l'uomo è un animale razionale. Questa è la definizione più classica, più famosa che si ricorda di Aristotele ed è importante ricordarla perché in fondo ci dice che il genere prossimo è quello animale, è l'insieme più stretto in cui possiamo collocare la persona umana, ma la differenza specifica per cui nessun uomo è un semplice animale è il fatto che è razionale. Ora, Cos'è che veramente differenzia un uomo da un animale? Vale la pena di ricordarlo, cari amici, perché con l'animalismo imperante dei nostri tempi, e per cui magari si fanno battaglie incredibili per salvare i piccoli della foca monaca e poi si sceglie l'aborto come diritto della salute della donna e segno di civiltà, capite che si è persa di vista proprio la differenza. Neanche se fossero equivalenti, i cuccioli dell'uomo e i cuccioli della foca si farebbero le stesse battaglie, ma figuratevi quanto più è colpevole l'aborto quando coloro che vengono uccisi sono dei piccoli innocenti che sono ben più di un animale, in quanto esseri animali ma razionali. Ora, quello che differenzia l'uomo dall'animale non è certamente il muoversi, il sentire, il ricordare o l'immaginare, anche il ricordo e l'immaginazione, secondo l'etologia moderna, sono posseduti in una certa misura anche dagli animali. La vera differenza è il fatto che l'uomo è capace di organizzare ragionamenti di tipo discorsivo, cioè argomenta per passaggi logici, per conoscere la realtà che lo circonda, al fine di agire con libertà, perché ragione e volontà, conoscenza e azione libera sono connessi. Questo è il punto decisivo, la libertà. Se si trattasse di parlare soltanto di una differenza di grado in quanto intelligenza, beh, forse sarebbe difficile dimostrare che c'è una differenza sostanziale. Qualcuno potrebbe dire, ma in realtà anche Darwin diceva che c'è una certa continuità. Poi di questo parleremo altre volte, ma evidentemente anche qui, insomma, le sciocchezze dette sono state tante. Sicuramente, io non mi vanto di avere nel mio albero genealogico scimmie, scimpanzé o quant'altro, gorilla come antenati. L'uomo è sostanzialmente diverso da un animale. Tuttavia, se parliamo semplicemente di intelligenza, possiamo dire, ma anche i gorilla sono intelligenti, anche i delfini sono intelligenti, anche i cani sono intelligenti nel senso più meccanico della capacità di ripetere certe operazioni. È ben diverso però se poniamo la questione della libertà. Perché se un certo grado di intelligenza non discorsiva è presente anche negli animali, non c'è invece nell'animale traccia di libertà. L'animale agisce per istinto, l'uomo agisce per libertà. Non avete mai visto un cane digiunare, un gatto raccontare barzellette, un pesciolino rosso fare scommesse? Non avete mai visto una scimmia pregare sulla tomba di un parente defunto? Perché? Perché sono tutte attività, digiunare, pregare, scommettere, raccontare barzellette, fare promesse, sono attività che includono la libertà. Immaginate di avere un cagnolino affamato, lo mettete davanti a un bel piatto di carne. Potete anche invitarlo a non mangiare perché deve fare la dieta, perché è venerdì santo, gli dite sei un cane cattolico, perché cattolica è la famiglia che ti ha accolto. Cosa farebbe questo cane? Si mangia la carne. Invece l'uomo è libero. L'uomo è libero di dire il mio istinto mi porterebbe a dire mangia, gusta, vedi, tocca, prendi, ma non lo faccio. Questa libertà è la diversità essenziale, ancor più che non l'intelligenza, tra l'animale e l'uomo. Quando mi capita di fare incontri di catechesi o di testimonianza e tocco il tema della libertà, soprattutto quando ci sono giovani o studenti, faccio un esempio che per quanto banale è molto efficace per comprendere quali conseguenze abbia per l'antropologia, cioè per la concezione dell'uomo, il riconoscere che esiste la libertà. Introduco l'argomento chiedendo a uno dei presenti se per favore può alzarsi e aprire una finestra della sala per far entrare un po' di aria fresca. Ovviamente l'esempio non funziona bene se è dicembre, se nevica, se ci sono 10 gradi sotto zero, ma normalmente il clima è abbastanza temperato. Allora questo si alza, va, apre la finestra, poi torna a sedersi. A quel punto, un po' tra lo sconcerto dei presenti, gli chiedo: scusi, mi farebbe ancora un favore? Certo, me la può chiudere? Chiaramente dico, insomma, l'ho appena fatta aprire e dico: questo si alza, la chiude, torna al posto. Dico, ecco fatto, tu hai un'anima. Perché? Perché quella che è stata compiuta è un'azione libera. La persona che io ho interpellato sceglie liberamente di alzarsi e soddisfare una mia richiesta, senza che ci sia un'azione né istintiva né meccanica. Non è l'istinto, sceglie di farlo. E non è neanche meccanico, non è che non so, la vibrazione della mia voce produce un effetto meccanico per cui deve alzarsi e irresistibilmente aprire la finestra. Questa No, invece un'azione libera che richiede una deliberazione, cioè deriva da una liberazione. Pertanto si configura come un'operazione spirituale, che è ben diversa dall'ingerire cibo, chiudere le dita di una mano o sbattere involontariamente le palpebre. Ora, le operazioni di tipo spirituale e non materiale, come lo scegliere liberamente, cioè il deliberare, richiedono una facoltà spirituale e non materiale, per poter essere posti in atto. La libertà richiede la volontà. Ma nell'individuo che agisce liberamente, il fatto che ci sia una facoltà spirituale significa che non ci può essere soltanto un corpo, ma anche un'anima, anche se non la vedi. E quello che abbiamo detto prima, riguardo agli esseri così vegetali, animali e poi umani, sappiamo che ovviamente se abbiamo un'anima spirituale, questa avrà delle funzioni vegetative, sensitive, ma anche razionali. Qualcuno potrebbe però insistere, io me lo immagino, anche tra chi magari ascolta a casa. Io vedo intorno a me cose, oggetti, l'anima non la vedo, vedo e quindi credo solo a quello che vedo. E io però replico, ma sei sicuro che il criterio del credo solo a ciò che vedo valga? Quante cose non le vediamo eppure ci crediamo e le riteniamo anche fondamentali? Ad esempio, quando tu sei sicuro dell'amore che una persona prova per te, come puoi dirlo? L'amore non lo vedi, eppure ne riconosci i segni, il modo in cui quella persona ti parla, come ti guarda, la cura che si prende di te. Potrei dire che tu vedi i segni che ti dicono che c'è qualcosa che va al di là dei segni che tu vedi. Il regalo che ti viene dato è un oggetto materiale, è un segno visibile di una realtà invisibile. Questa realtà invisibile è l'amore che ha nei tuoi confronti chi ti fa quel regalo. Così è anche dell'anima e del mondo interiore dell'uomo. Quello che i sensi non colgono e non percepiscono non sfugge alla ragione, che sa leggere in profondità la realtà umana, cogliendo le tracce più profonde che sfuggono alla scienza. Questo in fondo vuol dire davvero essere intelligenti, no? Cioè capaci di leggere la realtà in profondità. Intus legere, leggere in profondità. Quindi direi che basterebbe partire da Aristotele, confrontarsi con l'esperienza della libertà quando decidiamo di agire in un modo piuttosto che in un altro, confrontarci col desiderio che abbiamo di saperci amati per dire l'uomo non può essere semplicemente un corpo. Qual è l'insegnamento in proposito della Chiesa? Beh, oltre all'insegnamento della filosofia e dell'antropologia, dobbiamo guardare anche al Magistero della Chiesa, che dice chiaramente che l'uomo è unione di corpo e anima. L'uomo inteso come unione di corpo e anima è uno dei più grandi insegnamenti della Chiesa per quanto riguarda l'antropologia. E quindi qui vale la pena fermarsi un momento. La Chiesa insegna che già nella Sacra Scrittura troviamo traccia di questa duplice dimensione materiale e spirituale che caratterizza l'uomo. Ad esempio, riporta il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 362. La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale. Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico quando dice: Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio. Ecco, la terra è il soffio di Dio, il corpo è l'anima. In merito al rapporto tra corpo e anima, per evitare di privilegiare una delle due realtà a discapito dell'altra, per evitare di cadere in quegli errori che citavo prima, dove si dice in maniera materialistica l'uomo è soltanto corpo, o magari in maniera spiritualistica, anzitutto l'uomo è energia vitale, il corpo non conta. Il Catechismo ribadisce chiaramente che le due realtà sono legate da una relazione profonda, al punto che formano una sola natura, che è quella umana. Cito ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 365. L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare l'anima come forma del corpo. Questa è una terminologia tipica di Tommaso d'Aquino che la riprende da Aristotele. Quindi vediamo come l'insegnamento della Chiesa si appoggia alla sapienza filosofica dell'antichità. Ciò significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto di materia, è un corpo umano e vivente. Lo spirito e la materia nell'uomo non sono due nature congiunte, ma è la loro unione a formare un'unica natura. Ecco, quindi l'anima è ciò che anima il corpo. Il corpo è vivente in quanto c'è un'anima. È un po' il rapporto tra forma e materia è molto facile, basta ricordare l'esempio della pallina di cera che fa lo stesso Aristotele quando si dice in fondo la pallina di cera è di cera perché c'è la materia della cera, ma è una pallina perché ha la forma della pallina. Uno potrebbe dire l'uomo è un essere vivente, è un animale razionale perché c'è la materia corporea, ma c'è la forma vivente dell'anima spirituale. Il corpo per la sua materialità e l'anima per la sua spiritualità sono tra di loro essenzialmente diversi. Il corpo è corruttibile, è finito, mentre l'anima è incorruttibile e immortale. Ancora potremmo dire che il catechismo chiarisce questa importante verità. Siamo al numero 366. La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è creata direttamente da Dio, non è prodotta dai genitori. I genitori trasmettono il materiale biologico nel momento del concepimento, ma l'anima è infusa direttamente da Dio ed è immortale. Essa non perisce al momento della separazione dal corpo nella morte e di nuovo si unirà al corpo al momento della resurrezione finale. E dalla costituzione dell'uomo come unità di corpo e anima deriva il fondamento stesso della dignità dello stesso essere umano. Tanto che ancora una volta è il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 356, che dice di tutte le creature visibili, soltanto l'uomo è capace di conoscere e amare il proprio creatore. È la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, cioè come fine. Soltanto l'uomo è chiamato a condividere nella conoscenza e nell'amore la vita di Dio. A questo fine è stato creato ed è questa la ragione fondamentale della sua dignità. La dignità dell'uomo, fatto poco meno degli angeli, come ricorda il Salmo 8, deriva dal fatto che possiede un'anima. Un'anima spirituale razionale che gli concede quell'intelligenza discorsiva che lo porta a conoscere Dio e gli concede quella volontà libera che lo porta a poter corrispondere all'amore di Dio, perché questo è il punto fondamentale, che per poter dire io amo devi essere libero. Gli animali non amano, gli animali si accoppiano. Gli animali hanno una vita sessuale, non una vita affettiva, per quanto si cerchi con l'etologia contemporanea, sempre più animalista ed estrema, di assimilare i comportamenti umani a quegli animali. Solo l'uomo è capace di amare e di amare in maniera libera. Ora, torniamo al ragionamento e proviamo a fare un po' una sintesi, no? Prima di proseguire, una sintesi che possa concludere anche questa conversazione. La necessità di interrogarsi sulla morte e sulla possibilità della vita dopo la morte deriva anche dal fatto che l'uomo è composto di anima e corpo. Se l'uomo fosse un essere puramente corruttibile, corporeo, e fosse soggetto al disfacimento materiale come ogni altra cosa inanimata, la questione non si porrebbe. Ma l'uomo è corpo e anima, una unità inscindibile, tanto che la morte è un momento drammatico, non solo perché finisce la vita terrena, ma perché il corpo e l'anima si separano. Perché se il corpo muore, e muore, l'anima invece sopravvive, poiché è una sostanza spirituale sussistente, quindi può sussistere da sola. Ma io lo ribadisco, oltre a questo dato relativo alla natura dell'uomo, che è un essere a due dimensioni, corpo e anima, quello che spinge a doversi interrogare sulla morte, anzi quello che mi verrebbe da dire rende la questione ineludibile, è quello che il nostro cuore desidera. Il nostro cuore desidera l'infinito, desidera un amore che sia per sempre, desidera una vita piena e realizzata. Una vita capace di essere all'altezza di come dentro di noi sentiamo che dovrebbe essere. E quando uno dice il contrario, sta mentendo, perché nessuno, potendo scegliere, vorrebbe stare con la donna amata 100 anni, uno ci vorrebbe stare un'eternità, neanche 1000. Io a volte scherzo un po' con le mie alunne e dico: se trovi un fidanzato che dice vorrei stare con te tutta la vita, lascialo. Ma perché? Perché tutta la vita è poco. Se ti amasse davvero, ti direbbe per sempre. Il nostro desiderio è questo. Quando passiamo una bellissima giornata, per quanto bella sia la sera, diciamo che peccato è già finita, vorremmo non finisse mai. Ecco, questa misura infinita del desiderio del cuore dell'uomo è l'altro potente indizio che dice devi interrogarti su quello che va al di là. E quindi soprattutto quella sulla morte è una domanda che non si può evitare. Da essa in fondo dipende, l'ho detto altre volte, ma qui lo ribadisco, il senso e il valore della nostra vita. Se la morte è la fine di tutto, la nostra vita evidentemente ha un valore ben misero. Perché è circoscritta a poche giornate sulla Terra, che poi sono segnate da sofferenze e dolore, anche per chi vive 100 anni. Ma se invece la vita, attraversando la porta della morte, si spalanca sull'infinito, sull'eternità, ecco che allora questa nostra stessa esistenza terrena, pur con tutti i suoi limiti, acquista un valore enorme, perché diventa come un trampolino di lancio verso la vita eterna. Ecco, fin qui non è questione tanto di fede, cari amici, ma di ragione. Non c'è uomo, per quanto ateo o agnostico, che possa usare così male la ragione da non comprendere che l'interrogativo decisivo dell'esistenza umana riguarda proprio la sua fine, cioè la morte. Ed è questo che ci porterà nelle prossime puntate ad entrare proprio nel vivo di questo mistero grande e terribile, doloroso e affascinante al tempo stesso, che è la morte. E lo faremo non per il gusto di trattare cose tristi o perché pensiamo che la vita non abbia problemi, proprio perché vogliamo capire bene quale valore e quale consistenza ha la vita. Vogliamo essere certi che vivere la vita valga la pena. Vogliamo raggiungere una vita che sia degna di essere vissuta. Ma per fare questo dobbiamo andare proprio alla sua fine, alla meta, al destino. Dobbiamo sollevare quel velo di silenzio di cui parlavo all'inizio su questo dramma della morte. Ed è quello che faremo, cari amici, proseguendo nelle prossime puntate. E adesso facciamo una breve pausa musicale, poi vi aspetto in diretta con le vostre domande che, come sempre, vi prego siano brevi e attinenti a quanto ho presentato. A tra poco. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera professore, io chiamo da Rieti, complimenti per la trasmissione perché seguo spesso le sue trasmissioni, sono molto molto interessanti, la stimo molto. Ma Grazie a volevo Dio. fare una domanda, volevo Come fare. si chiama? Andrea, Grazie. volevo fare una domanda che si collega però a un'altra trasmissione che ho sentito qualche mese fa. E lei ha detto che chi è nel peccato mortale. Dopo la morte va direttamente all'inferno. Praticamente, ma allora io le chiedo questo, no? Ma se Dio ci è padre e ci ha amato per tutta la vita e noi ci siamo comportati bene per tanti e tanti anni, abbiamo pregato, abbiamo aiutato gli altri, eccetera, cioè vale un peccato o una serie di peccati all'ultimo? Per compromettere tutto l'amore che il nostro padre ci dona per tutta la vita? Ma un padre manderebbe all'inferno un proprio figlio? Grazie per questa domanda, Andrea, e che richiede di toccare in breve la questione, ma in realtà è attinente perché la morte poi fa nascere anche questi interrogativi. Non è il problema di fermarsi all'essere in peccato mortale, perché come dice il Catechismo, quando definisce l'inferno al numero 1033, parla dell'inferno come la destinazione di coloro che si autoescludono dalla comunione di vita beata con Dio, perché muoiono in peccato mortale, attenzione, senza pentirsi. Allora il problema non è di essere in peccato mortale, ma di esserlo senza pentirsi. Pensiamo al cosiddetto buon ladrone, che così buono non doveva essere se è stato messo in croce. E il problema è che questa condizione è riscattata un istante prima della morte dal pentimento sincero. Allora, proprio perché Dio è un padre buono e misericordioso, grazie al grande insegnamento dell'Apostola della Divina Misericordia che è Santa Faustina Kowalska, possiamo dire: ma la misericordia di Dio farà salti mortali, potremmo dire, per trovare un modo per chiedere il pentimento di quest'anima. Ma proprio per quello che abbiamo detto nella conversazione di questa sera, la libertà umana è quel dato imprescindibile per cui non c'è nessun automatismo. È un po' la differenza tra la vera e la falsa misericordia. La falsa misericordia dice Dio perdona tutti, a dispetto della loro volontà. Quindi non conta se sei pentito oppure no. La vera misericordia è quella per cui Gesù dice all'adultera perdonata, capitolo 8 di Giovanni, vai non peccare più. Ma che questa adultera non abbia più peccato dipende dalla sua libertà e non dalla misericordia o dalla volontà di Dio. Per cui sicuramente Dio come padre buono non vorrebbe che nessun figlio si perdesse. Ricordiamo la prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4. Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. La volontà di Dio è di una salvezza universale. Che poi questa volontà riesca a realizzarsi o meno dipende dall'incontro di questo amore paterno con la libertà dell'uomo che a volte giunge fino all'estrema decisione di rifiutare in maniera irrevocabile ed eterna l'amore di Dio. Pronto? Pronto? Buonasera. Come Buonasera, professore Manetti. si chiama? Pronto? Sì, mi chiamo Salvatore, telefono dalla Sicilia. E Bene. volevo intanto fare i miei complimenti per la chiarezza espositiva e poi sapere, in base alle sue conoscenze, ai suoi studi, alle sue esperienze e in base anche alla sintesi che ho fatto stasera, in che rapporto mettiamo la certezza della vita eterna, proprio come rapporto con quella esistenziale in base alla libertà e alla volontà dell'uomo? Beh, diciamo che noi ci stiamo occupando della vita eterna, intendendo come quell'eternità di vita che attende qualunque uomo dopo la morte. Poi vedremo, affrontando la terza parte di queste conversazioni, adesso ci stiamo ponendo un po' gli interrogativi prima della morte. Poi ci sarà una parte che comincerà dalla prossima puntata, in cui vedremo un po' che cos'è la morte, questo evento drammatico che segna la fine della vita terrena, ma apre una possibilità di eternità per l'uomo. E poi interrogandoci su questa vita eterna, ci chiederemo: ma è vita o è morte eterna? E vedremo come la libertà dell'uomo, diciamo così, non può l'uomo decidere che non ci sia una eternità dopo la sua morte, ma la libertà umana, incontrando, come si può dire, la grazia e la misericordia di Dio, può scegliere che questa eternità sia vita beata. Quando la libertà dell'uomo rifiuta di incontrare e di corrispondere all'amore di Dio, ecco che si arriva, come dicevo prima, all'ascoltatore precedente, a quello stato di autoesclusione dalla comunione con Dio, che è l'inferno, per cui si sceglie la morte eterna. Si parla spesso anche nella scrittura della seconda morte, la si riferisce alla morte conseguente, il cosiddetto peccato mortale. Quando si parla di peccato mortale, così mi ricollego a quanto detto anche poc'anzi, mortale in due sensi, lo dice la Chiesa Cattolica, mortale perché è la morte dell'anima allo stato presente, perché si perde la grazia di Dio, che è la vita di Dio dentro di noi, mortale perché la sua conseguenza sarebbe, dopo la morte terrena, di condurre alla seconda morte, cioè alla morte eterna, quella appunto dell'inferno e della dannazione. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Luisa Genova. Io volevo dire che sono contraria al crimine dell'aborto, ma sono anche contenta quando l'uomo si dedica a salvare i piccoli della focamonica. E volevo anche dire che ci sono dei cani che si sono lasciati morire sulla tomba del padrone, quindi sono capaci al digiuno. C'è il gattino che sta sul letto finché il padrone è ammalato, finché non si alza. E poi io ho un gattino nero che si è abbinato a casa mia e quando gli chiedo di andarmi a cercare il mio gatto che è ancora fuori alla sera va a cercarlo, quindi io non lo obbligo a cercare, lo fa lui liberamente e quindi anche il Papa Pio VI ha detto che di non, quando muoiono un nostro cagnolino, un nostro gattino, di non piangere perché lo ritroveremo in paradiso. Io non so a che maniera hanno o non hanno un'anima. Grazie per questo intervento, ma è importante distinguere quando si rinuncia ad esempio al cibo per istinto o quando lo si fa liberamente. Il fatto che non si prenda cibo, alcune specie animali, ci sono le madri che sono disposte anche a morire di fame pur di nutrire i loro piccoli, ma non lo fanno liberamente, lo fanno per istinto. Noi, faccio un esempio molto semplice per farmi capire, quando un uomo uccide un uomo innocente, viene giustamente perseguito dalla giustizia, viene messo in carcere. E quando un leone sbrana il domatore e viene abbattuto, mica per punirlo, perché è pericoloso, perché ha agito per istinto, non perché è cattivo. Poi noi siamo abituati a usare dei linguaggi che sono umani anche per gli animali, no? Fai il bravo, fai il cattivo, ma non è così. Non è che l'animale solo se costretto agisce. L'agire istintivamente è una costrizione interiore, cioè il gatto che è abituato a agire in un certo modo, o il cane che si lascia morire sulla tomba del padrone, non potrebbe fare diversamente. Ma non è che fa così perché è obbligato dall'esterno, ma perché è obbligato da un istinto interno. Invece l'uomo è libero e soltanto quando c'è libertà c'è una vita morale. Rispetto a quello che potrebbe essere il paradiso, a me piace di più citare il capitolo 8 della lettera ai Romani, dove si dice che tutta la creazione geme aspetta anch'essa di essere rinnovata quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova, ma questo è un mistero. Che cosa si può dire della realtà materiale della creazione? Possiamo dire che sicuramente la materia non scomparirà, perché il corpo umano alla fine dei tempi risorgerà. E già ora Cristo possiede un corpo risorto e glorificato che è eterno, e la Madonna assunta in cielo è assunta in corpo e anima. Quindi la materia non viene per nulla svilita o eliminata, ecco, dal cristianesimo, ma dall'altra parte dobbiamo anche riconoscere che è un grande mistero. Di una cosa possiamo essere certi, ecco, e questo mi sento di poterlo dire, non so in quale forma potremmo ritrovare o meno animali in paradiso. Ma sono certo che nel cuore di Dio che potremo contemplare nella vita beata avremo sicuramente modo di ritrovare le tracce, il ricordo anche di tutti quegli animali che in un certo modo hanno fatto parte della nostra vita. Ma è essenziale cogliere la differenza e questo lo dico non tanto per così criticare chi si prende anche cura degli animali, ma come ci si prende cura di qualunque forma vivente e del creato stesso che Dio ci ha affidato perché lo potessimo custodire, ma lo dico perché invece, ahimè, oggi sembra prevalere neanche in maniera tanto implicita una mentalità per cui l'uomo è semplicemente un animale e forse anche la specie più dannosa per questo nostro pianeta. Ecco, come antidoto a questa menzogna sull'uomo, mi preme invece ribadire che c'è una differenza essenziale tra uomini e animali che sta proprio sul punto dell'anima razionale, della volontà e della libertà, libertà che, lo ripeto, gli animali in quanto tali non possiedono. Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, il mio caso è molto particolare. È un ragazzo, un giovane che ha tentato il suicidio e dopo mesi si è salvato, è vivo, però dopo mesi è sempre lì con quell'idea. Non vuole vivere. Nessuno lo può aiutare. Non si lascia aiutare da nessuno. Non vuole vedere nessuno, non crede più né a psicologi né a psichiatri perché ne ha già passati tanti, tanti anni. Cosa, oltre che a pregare, che io prego giorno e notte, aspetto la grazia, aspetto questa grazia divina, ma vorrei aiutarlo anche diversamente. Cosa si può fare? Allora, grazie per questo intervento con cui concludiamo questa puntata e grazie anche per un intervento così personale, così doloroso. Rispondo in una maniera che potrebbe essere un po' generale, ma nello specifico se mi vuole scrivere tramite Radio Maria oppure anche alla mia email, la trova su internet, lo può fare e rispondo volentieri più in dettaglio. In generale vorrei innanzitutto raccomandare una premessa. La preghiera non è l'ultima risorsa, come se fosse la cosa meno importante, ma è la prima. È il primo passo, è il più importante ed è l'ultimo, perché la preghiera è capace di ottenere quelle grazie che l'agire dell'uomo, l'umana persuasione, la parola, il ragionamento non riescono ad ottenere. Quando si sopravvive a un tentativo di suicidio, quando si incomincia a pensare che la vita non valga la pena, si dimostra chiaramente che non è puramente corporea la vita dell'uomo, perché altrimenti chi gode di buona salute, chi ha un tetto sulla testa, chi ha da mangiare e da bere, non dovrebbe pensare la faccio finita. Quando viene meno una prospettiva di senso e di significato, ecco che allora la vita perde di gusto e uno vorrebbe farla magari anche finita. Noi siamo fatti per essere amati e per amare. A me viene da dirle, e lo dico anche per tutti quelli che sono all'ascolto, hanno situazioni simili accanto a loro, preghiera perseverante e fiduciosa e presenza accanto a queste persone per farle sentire amate, perché chi ama non ha più bisogno di nulla. Bisogna proprio credere che questa peste del XXI secolo, che è la depressione, che coglie oltre 300 milioni di persone nel mondo, si sconfigge con la preghiera e con l'amore, perché persone amate sono capaci di ritrovare il senso della vita. Quanti poveri nelle strade delle città più povere dell'India venivano soccorsi dalle suore missionarie della carità di Madre Teresa, e quanti poveri bambini o anziani ormai moribondi senza speranza di salvezza tra le braccia di Madre Teresa di Calcutta hanno potuto ritrovare un sorriso. Quella è la speranza. Quindi chiedo di avere proprio questo, di farsi carico, una sorta di missione, no? Di servizio al prossimo, una missionarietà vicini soprattutto a quelli che sono poveri di affetto e di amore. E chiedo che questo caso che la nostra ascoltatrice ha presentato in maniera così anonima venga comunque accolto insieme a tutti quelli simili nelle preghiere della grande famiglia di Radio Maria. Come sempre vi chiedo di pregare per il Santo Padre e per la Chiesa, di ricordarmi nella preghiera come anch'io faccio per voi e vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento, il primo sabato del prossimo mese. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.